il movimento della macchina non ti spegne il frigo, è una stupidaggine già, se no fai l'allertato dove te lo fai fare, non c'è motivo di stare lì a provare con l'accendisigaro, l'accendisigaro va bene per accendere le sigarette, no, non per il baracchino, ma lasciamo perdere. Ma c'è Antonio, dai, non facciamo venire da parte Antonio, andate a tu, non lo sento già. Nemmeno io. Solo Antonio c'era rimasto. Luca che sta cantando, continua Luca. No, quasi rimani. Intanto la prendo, fammi calli, però sono un po' indeciso se comprarmene una amplificata, ma mi piace troppo la chitarra, troppo bella. Ehi, mio fratello mi fa le chitarre, proprio di quelle professionali, infatti alla settimana entrante devo andare io e devo tagliarmi dei pezzi. Perché in questo momento ha un problema alla spalla, lui non può muovere molto il braccio, ha dei dolori alla spalla e lui fa le chitarre, ma non da adesso, da tantissimi anni, ma fa chitarre professionali, lì. Poi le vende 3.000-3.500 euro l'una, o Luca, proprio di qui fa le classiche, e anche acustiche, di tutto le fa, e tutti i tipi, anche mandolini fa. Ma anche spalla mancante, amplificata le fa, cavolo, 3.500 euro, vabbè, sicuramente è un'ottima chitarra, non è che si chitarra di plastica che vendi su internet. Ma so che si vende a 300 euro lì da M-Treno, come si chiama, quello del biciclare padre, a 300 euro. Sì, poi anche ci mette il microfonino, amplificato, tutto. Come la richiedi? Te la fa, come la richiedi? Tu pensa che solo di materiale, senza parlare della parte elettrica per amplificarla, spende intorno alle 800 euro, perché fa arrivare tutto il materiale dal continente, perché ci vuole un materiale particolare, in modo che abbia un'acustica come si deve. Ma ne ha fatto per cantanti professionisti, tipo ad esempio intanto Itazenda, l'altro, quel cantante sardo, come si chiama quel cantante sardo, bravo, non mi ricordo, quel cantante sardo, anziano, con i capelli bianchi, non mi lamento questo si chiama, Piero Marras, poi c'è l'altro cantante bravo, stesso sardo, a livello di Piero Marras, che non mi ricordo più i nomi, ecco. Sì, vabbè, io sono più per il sassarese, sì. Vabbè, adesso cose belle, là. Prima c'era Marruso che le faceva, te lo ricordi, di affumerare? E gli tagliamo i pezzi io, Marruso, veniva da me a tagliare i pezzi, e non me lo ricordo, a voi se non me lo ricordo, altro che... E la sorella te la ricordi? Ehi, chi si aguacca, quando ci metteva a cantare, mamma mia, e vabbè, era fuori di testa, dai. Era quella, già lo so, con quei capelli che aveva quel cespuglio in testa, sembrava sempre spaventata. Neri, ce l'aveva, cioè se si ritingeva. Io la paragonavo un po' a Gesuino Cosseto, a quella lì. più o meno, infatti, vanno a Marruso. Io conosco benissimo anche il nipote Gianfranco Marruso, assicuratore di auto eccetera, a Puglia, tutto, me che sono 50 anni in quella zona, io ho 12 anni, anzi ci sono più di 50 anni in quella zona, perché ci sono ancora, dunque ti puoi immaginare, c'era un ragazzo, avevo 27 anni avevo quando ho iniziato lì, e sono uscito praticamente 3 anni fa da lavoro, e però ci sono sempre, e chi è che non conosco lì, e chi è che non mi conosce, tutti? Cavagrava. Vabbè, anche io ero nella zona, anche se non ci sono 50 anni, perché io mi sono sposato a 29 anni e poi me ne sono andato a quella zona lì. Però conosco molta gente, proprio amici lì che abita Paolo lì vicino a Marruga, Marrugio, quello che faceva le città. Insomma, abitavano in via Frumenargia e andavo lì, passavo e la vedevo sempre a Palla Marrugio. Sì, beh certo, sì, capita. Io mi ricordo gente che passava, andava in via Castelletta questa donna, no? La ragazza la volevano, sì, Anna, mi canti una canzone, lei sulla terra squarciagola a cantare in lirica, no, cantava in lirica lui, lei, canzone lì, della lirica cantava, ma era intonata pure, però faceva ridere la gente, sai com'è, quando tu trovi un soggetto del genere, si sa, la gente è tutto sommato anche un po' cattiva, tra virgolette, e ne approfitta per ridere, ma comunque niente di male, non è che la trattavano male, anzi la illudevano, che le dicevano che sapeva cantare bene, invece era una campana. Ma Antonio non c'è più. Antonio non l'ha preso, Antonio. Azzardo. Dei tempi già, dei tempi, ho passato più anni della mia vita lì, in Bielo Succedi, che qua a casa, si può immaginare, nonostante che sono sposato già 49 anni, per dire, anch'io avevo 29 anni quando mi sono sposato, avevo 29 anni e alcuni mesi quando mi sono sposato. E anche se è un po' tardino, ma io prima mi sono tutto arredato la casa, non mi mancavano né tende, né piatti, né nulla, tutto c'era, quando io sono andato a abitare c'era tutto, lampadari, tutto gatto. Io l'ho comprata, la casa era vuota, era un palazzo nuovo, io l'ho preso dalla prima pietra, ho comprato la casa e mi ho fatto tutto quanto prima di sposarmi. C'erano anche le tende, Giulio, tutto, non c'è venuto nulla in salita. Sì, sì, beh certo, un modo buono di fare è quello, certo, va benissimo così. No, io quando, siccome io mi sono dovuto sposare anche in circostanze luttuose, perché nel frattempo avevo avuto, cioè nel frattempo, un po' prima, io mi sono sposato dopo un mese che era morta mia suocera, perché avevo avuto un incidente stradale scendendo da Usino con la macchina, era con una famiglia che stavano rientrando da Usino, stavano rientrando, questa macchina era ribaltata, e il caso ha voluto che è morta lì. Gli altri sono tutti salvati, qualche graffietto e basta. Lei invece aveva avuto lo sfondamento della testa, della fronte praticamente, dopo 15 giorni di ospedale è morta. E allora, siccome mia moglie praticamente era senza padre, e allora mi sono dovuto sposare velocemente, tutto in 448, ma ormai eravamo insieme già da due o tre anni, sempre quello, dunque non è quello il problema. Io con mia moglie sono oltre 50 anni insieme, 52, 53 anni, una cosa del genere. Lei era giovane, aveva appena 20 anni quando ci siamo sposati, che puoi immaginare. Per cui praticamente l'ho anche all'80, si può dire. Avanti Brecco, ma perché sei così basso? Ah, caffè, un controllo, io ti posso dare la Santiago di 4, una radio di 3. C'è Giulio, vediamo un po' se ti ascolta. Giulio, ascolta Riccardino. No, non arriva Riccardino così, qua non arriva. Buonasera a tutti, e cosa è successo a Riccardino? Oh, ciao Tony, e beh, tutto a posto? Sono arrivato un quarto d'ora fa da Urbia, sì. Ah, meglio male, sono contento, dai, sono contento per te, Tony, bene, bene. Io purtroppo non ci sono potuto andare, sarei dovuto andare anche io oggi, invece Nisba me l'hanno disdetta, vabbè, comunque adesso non ci penso più, appena è possibile me la faccio qua, a pagamento non se ne va a vedere più, mai si vedono loro e chi sono. Ero tutto il giorno con Stefano, poi ho visto la sua stazione, una cosa spaventosa, bello veramente, mai visto una cosa del genere. Con Stefano siamo amici, veniva sempre a trovarmi in falegnameria, tutte le volte che rientrava da Umbria, e poi di tanto in tanto ci sentiamo anche al telefono, ci sentiamo anche al telefono, e vabbè, comunque. bene bene, e ti dirò di più. L'unico CD che è entrato a casa mia per una sola volta è proprio Stefano Principe, ma non per vedere la stazione, no, perché io ho una pennina che poi me l'aveva suggerita lui stesso, che mettendola nel computer posso sentire i radioamatori eccetera eccetera, e un po' tutto, anche delle radio private e tutto. E infatti lui era venuto, me l'aveva installata, me l'aveva e funzionava bene, ce l'ho sempre con la pennina lì, però ormai non ho, avevo cambiato computer, avevo cambiato, e dunque ho perso la, diciamo così, l'applicazione, anche perché io sinceramente non è che sono bravo con computer, tutt'altro, tutto visto lì, c'è Gianni anche avanti. Avanti Gianni. Ciao a tutti, aspetta che c'è Eugenio. Eugenio, avanti. Ma chi è che sta cantando? Mi sembra che Eugenio invece non è lui, stanno cantando. Cacchi gutto. E allora Tony, tutto bene, è andato? La visita com'è andata? No, ne ho fatto visita, sono andato a trovare a mio figlio, con Stefano, siamo andati a posada, poi siamo andati a mangiarsi insieme qualcosa, poi siamo tornati a Olbia, ho visto la sua stazione a casa sua, vede tutto Olbia da casa sua, bella stazione, quindi, begli apparati, mai visto una cosa del genere, mostri proprio. Ma a Nuoro non ci è andato? No, negativo. Fai! Rimandato. Ah, rimandatela. Come hanno fatto per me, è la stessa cosa, ma te ne immagini che avete fatto andarcela, ma comunque pazienza, la tenuto per parlarne. Io ero convinto che tu stavi andando a Nuoro. No, a Urbia, se te l'ho detto da Stefano. Ho capito, io sapevo dove passare da Stefano, poi andavo a te a Nuoro, dicevo devi lasciare la macchina lì e poi andare a Nuoro. No, negativo. Ci ha messo poco, un'ora e 5 minuti da Urbia a venire qua a me. E anche io ci metto così. Ci metto anche di meno forse. E basta che cammini già ci metti poco. Io sono arrivato sulla 180, poi ho mollato, scendendo in condizione, che c'è? No, io sono andato piano da 120. Fretta non ne aveva, no, bella passeggiata che ci ho fatto. Tutto qua. Ma com'è ricambina così basso, cosa è successo? Ma allora c'è Eugenio, è Eugenio! Hai detto che cantemmi? Allora, io mi sei sembrato tutto, detto avanti Eugenio, poi sento cantare, ah non è Eugenio, no, è un tipo che sta cantando, ma ti ho riconosciuto. Buonasera a te. Ben sentito, va? Dove sei diretto? A casa, sono uscito da lavoro e mi accingo a restare a casa a mangiare perché ho fame. Cava. E allora vai a mangiare tranquillo, sono in compagnia di Torino Kawasaki e di Giulio, dai, avanti Giulio. Ok, ciao Eugenio, caspitina, tu ci stai abbandonando, stai abbandonando la 27, guarda, prima o poi vengo lì a Porto Torres e ti obbligo a metterti alla radio. Io ce l'ho da qui a casa, ma non riesco a fare i collegamenti al microfono, ci ho provato in mille maniere ma non riesco. Madonna santissima, io ne ho fatto uno anche poco fa, con tanta semplicità e tanta facilità. Vabbè, là, comunque, va bene lo stesso. Riprova, sarai più fortunato, ritentaci. Vai, Tony. Va bene, dai, già va bene. Hai detto lì cosa buona non hai portato da Olbia? No, a Tonino stavo chiedendo se avevo portato cosa buona da Olbia, invece mi sembra che sia allontanato dal baracchino. Va bene, dai, va bene così. Comunque, adesso cosa stai usando? L'Uranus stai usando? Oggi? Sto usando la baracchina, la metto in furgone, la metto originale. io che? No, pensavo, ma non ha questo, te l'hai venduto, ma avevi detto che lo volevi vendere. C'era uno che lo stava cercando disperatamente su internet, un urano. Ok, no, io ce l'ho uguale, il 789 della Sommercamp, però è uguale come apparato. È rientrato Tonino, avanti Tonino. Mi hanno fatto una bassa, quindi sono tanto a Tonino. Ciao Eugenio, Eugenio. Ciao Eugenio, ciao, buona carica quando la fa, buon tutto. Piacere averti sentito. Avanti, giù. Ok, ciao Eugenio, fatti sentire più spesso. Ci siamo sempre, già lo sai, la sera ci siamo sempre. Avanti Tony, intanto io mi allontano un attimino. Vai Tony. Ok, ciao G. Però adesso in macchina perché me ne vado più a livello QRM. Ok, ahia. Niente, domani c'è quella promozione buona mia lì, ho già. Domani che cos'è? Giovedì. Domani già sono libero di mattina perché venerdì viene. Il fisioterapista sta venendo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi allora passo a prendere insomma la macchina. Ma che la ci vai? Se andi a Lutro non mi vengo. Vado presto già, perché sennò poi ne rubano tutti che. Ma no, tu vai tranquillo, non c'è problema. Poi io già mi avvicino io, perché devo andare anche nello Spina a comprarmi il gel. Quando ci sono queste occasioni, devo andare a Chizzona, se no c'è poi venuto la ciampi. Vabbè, pazienza, se non lo trovo, non lo compro. Già mi serve anche a me, perché a volte devo svitare, fare, devo stare con un cacciavite che ti si fa dei gatti minimali. Ok. E allora Giulio si è sentato. A me mi serve un microfono amplificato urgentemente. Buono. L'M93 che ha toni più acuti, va bene per quell'apparato? Non ho capito. E dove lo compro? Da internet lo fusaro se ce l'ha. Ciao Tonino, io sono in Quaric e sto ancora mangiando. Ciao, riprendi Tonino. Comunque non lo so se adesso sei ingrassato o sei sempre magro, Sì, stomaco, molto stomaco. D'altronde io sono anche sedentario, Tonino, faccio sport e quindi, però non sono a livelli di anni fa, sembravo incinta di 9 mesi anni fa, perché ero ogni giorno McDonald's bandiera gialla, pranzo e cena, non ti dico come ero diventato, dovevo usare le bretelle, non tolleravo la cintura. No, io già ce l'ho anch'io per le pancetta, ripeto, però la cintura la uso, niente bretelle di udio, per carità, non la metterò mai. Avanti Gianni. A te vai scaramaccai con le cose, con le bretelle, ui. No. Vabbè dai, già lo busco adesso su internet e vado e lo cerco. Il microfono amplificato mi serve per la macchina. Poi una volta che il microfono c'ho tutto io, perché l'antenna va bene, Marco. Cazzo arrivare Santiago da sotto casa, che era tutto pieno di palati, di cose, va bene l'antenna. Oh già, ma quell'antenna stavi provando? Quella allungabile, quella che usavo col portatile SOS. Ah, quella lì era, ed eri sotto casa. Caspita. Cioè, per l'antenna che è come quella del Maxcom, che poi comunque rispetto a quell'altra veicolare perde, il segnale era più che buono, 8,5. Caspita. Ma quindi hai rinunciato un po' alla tipo... Come si chiama quella? Vaffa Napoli. Uffa, quella, la Turbo Mini, Mini Turbo. Beh, se va bene questa, Marco, chi me lo fa fare spendere su, mi scusa. Adesso dovrò vedere se riesco a metterci questo cavo. Ci sta anche nel cassetto l'apparecchio, come l'altra macchina. Capito? Quindi va... Ascolta, ma per caso quell'antennino, quella base magnetica con l'antennino, c'ha il cavo RG, quello sottile, il 174? Ma io gli ho messo, devi vedere cosa sembra, gli ho messo il PL normale, perché aveva un attacco diverso, capito? E aveva quell'attacco femmina, un casino là, insomma, dovevi mettere dei riduttori per arrivare al PL eccetera. Le ho fatto direttamente l'attacco PL, le ho tolto, le ho tagliato, quello lì gli ho messo l'attacco PL, va benissimo quello lì, capito? Io pensavo che fosse dall'antenna e invece è proprio l'attacco accendi sigari che non va bene. Rilanciamo a Tonino, poi casomai ti chiedo una cosa sulla Cindisicari. Riprendi Tonino. No, Marco, io non c'è problema, chiedilo, sono qui in ascolto. Ehi, già, in poche parole, siccome la macchina è nuova, io presumo che comunque la femmina, la presa Cindisicari sia buona, il problema sarà nello spinotto che metti tu, perché non sono tutti uguali, Gianni. Io ho provato quelli base che ti danno, per esempio, con, come si chiamano? Con quelli aspirapolverini in offerta ad Auchan, no? Certe volte quelli ballano un po', invece un altro tipo di spina accende sigari, che poi alla fine è lo stesso, però cambia lievemente la forma eppure fa meglio contatto. Guarda, se ho la foto te lo faccio vedere, e se trovi la spina accende sigari buona, in teoria dovrebbe andare bene, sempre in teoria. Da me ti dirò che andavano bene tutte e due, però la migliore era quella che di cui ti manderò la foto se la trovo. Vai Tonino, adesso vado a vedere. Marco, guarda che quello che c'ho incastra proprio, no, addirittura è duro da entrare, figurati, no, non è quello il problema, lo escludo. Che so, saldaturine interne fredde all'interno della spina accendisigari, non so più cosa pensare già, dubito che sia un rientro di RF, cioè l'alimentazione c'è, cioè i volt sono quelli, l'ampere ne hai 10, non è, lo escludo che sia sotto tensione, no, assolutamente già. Toni, digli. No, non lo stiamo ascoltando, ok. Stiamo cercando di mettere PL qua a un altro attacco. Devo fare lo spezzoncino, non mi stavo seguendo, scusa. Allora Marco, io ci avevo il tonton attaccato, mi andava benissimo, capito? Il tonton andava bene. Sono rientrato? Ehi Giulio, adesso ti rilancio, perché ripeto già, lì cioè la batteria sì 12 volte, poi quando si è in marcia sono 13,5, cioè la tensione va bene, l'amperaggio ai 10 ampere, quindi ha voglia, il baracchino omologato la consumerà quel baracchino 1,5-2 di ampere massimo, ma proprio a tronca dura, quindi non credo che sia la, comunque né la tensione né l'amperaggio, che sia un rientro di RF, bisognerebbe fare prove già. Però ti ricordi, se tu vuoi provare quell'antenna che ho io, al limite ci metti un foglio di carta in più per sicurezza e vedi se ha questi rientri, se sono rientri di RF. Vai Giulio. Ok, vabbè dai, non ho seguito l'ultimo discorso che stavate facendo, comunque sono rientrato. Gianni, come esce questa radio? Con questo microfono normale? È un baracchino questo. Già va bene, il microfono si sente che è normale, ma va bene, dai, è una bella radio. Cos'è questo qua, il Cobra? Sì, questo qui è il Cobra. Il Cobra col microfono normale, sì. E dalla a me che gli pongo un altro microfono, a vedere come esce. Ehi, se per quello posso mettere anche l'M300, posso mettere, non è un problema, posso mettere anche l'MB+4, vanno bene tutti qua, io avevo fatto gli ispezioni per cui vanno bene. E vabbè, ma se lo metti tu non lo dai a me l'apparecchio, e quello è il problema. Intende, bella gara, bubu. Tony, com'è questo, ti piace? È accettabile, poi se metto questo microfono chissà come dici che... Questo è un microfono normale per cui niente di particolare, però diciamo che tutto sommato va bene. Ascolto frontale naturalmente, perché l'ascolto qua è frontale. Cappa, sta facendo bene giù. Poi già lo sai, no? Il numero ce l'hai. Ok. Adesso te lo faccio sentire con l'M300 fra un po', Gianni. Aspetta un attimino, credo che ci sia anche la batteria già pronta e te lo faccio sentire fra un po', dai. Fai la lotteria dei pezzi che devi vendere, fai la lotteria che offriamo. Azzardo! La lotteria, ripeta, andiamo a già, Vabbè dai, adesso rilancio a Marco, vai Marco! Vacca! Azzardo! Giulio, devi fare Portobello! Azzardo, ci sei? Azzardo! Azzardo! Ma che sei già a me, non ti puoi sapere? Azzardo! E che Azzardo! Ah, il fidanzato di Falcone. Io non ti comprendo. Come tu mi comprendi? Azzardo è il fidanzato di Falcone. Ma chi? Il bomb delle cose? No, Azzardo. No, Pantano, Azzardo. Poi, l'altro giorno ha detto la... Ha detto il coso, aspetta. Lasciami per... Ma se lo sappiamo carina, ma di Falcone. Ha detto Azzardo? Tu l'hai conosciuto Azzardo? No. No, che te lo sei tipo su di, Azzardo si chiama Doni. Attinozzi, quartiere americano. Che su manzane lo mancato di rubescio. Ah, giù viscio, e cose viscio. Tu le pagine di Zarretto. Mi Zarretto, di cassetto. E rubescio mutanda. Ora mi denno, la fammi batti in tra. Fogo, fogo, fogo, fogo. A pizzarino, fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo. A pizzarino, che è bom. Accuditi che gusto. Gianni, ecco le 1300, un po' a distanza, dai. Va bene, dai. È più forte la radio adesso. Eh beh, è volato il microfono questo, già lo credo che è più forte. È normale, no? Ci mancherebbe. Sta facendo un rumore sotto fuoco. Sta innescando giù. Chi è l'alimentatore? Cazzo. Prova a mettere il checco. A mettere l'eco? No, non mi piace. Te, ho aumentato un po'. Sicuramente un pochino ci sarà. A provarlo, solo per provarlo, non perché ti piace. Piace a me. L'ho messo, un pochino l'ho messo. Te, lo metto ancora un po'. Questo non si regola da dentro anche l'eco. No, non c'è di eco. Allora vuol dire chiuso da dentro. Io adesso non me lo ricordo più. Che te ero qualche anno senza prenderlo in mano questo microfono. Vedi a me quello lì. No, me lo tengo perché mi piace. Vabbè, non trovo un microfono per mettermi le baracchine in macchina, dai, oggi ho compreso, non li bombo, se no mi metto di nuovo il 48 modificato e va a ammazzare tutto. E fa così, capita, appunto. Solo che volevo farlo girare quel 48 plus, è un peccato, è nuovo, nuovo. Tu non ti interessa il 48 plus? Ma cos'è, il microfono o baracchino? Baracchino. Barattino della Midland, Midland. Per il collare? Per il collare. No, non è per il collare. Per il collare. Fa macchina? Ah, per il collare, ho capito, per il collare. Sì, per macchina, è tipo l'ana 48 normale, solo che è quello digitale. No, mi piace. Giulio, come lo stacco il mio adesivo con la lenza? L'adesivo come lo puoi attaccare con la lenza? Ho praticamente attaccato col biadesivo due cose, devo staccarle, ma non si stacca, è un bel forte questo biadesivo. Cosa ci posso passare? La lenza solo. Anche la lenza, però se no basta mettere un po' di diluente, diluente nitro e lo stacco, oppure prendi un po' di olio e lo stacchi anche con l'olio. Anche olio a friggere, non è un problema. Lo bagni con l'olio e vedrai che la cosa con moto, l'adesivo si stacca. Ma mi rovina la vernice forse, non lo so, vabbè adesso vediamo. Perché attaccato la lampada all'alimentatore, l'ho messo sull'alimentatore, l'ho attaccato col biadesivo perché si muoveva, capito? E c'erano tutti così da parte, attaccati col biadesivo le staffe per non muoversi. Allora sono l'unico, niente accettore. Se c'è roba verniciata no, niente accettore, solo con l'unico. Cappagatta, vabbè adesso vedo se riesco anche scaldando, vediamo un pochettino, lo scaldo appena poi rimasto la lezza e vediamo. Ci sta in macchina, ragazzi, ci sta anche nel cassettino, lo sai. Lo credo che ci sta, già lo credo. È perché io non lo portavo lì, quando ce l'avevo in macchina il baracchino. Lo mettevo dentro il cassettino, lo mettevo, ci sta benissimo, tranquillamente. Magari girato di fianco, non di punta, ma di fianco ci sta benissimo. No, di punta ci sta di punta, è fondo il cassetto, è profondo. Ancora meglio, vuol dire che lì il cassettino è più profondo, più grande, va bene così. Sì, beh certo, sta benissimo. Io, anzi, diciamo che me lo lasciavo anche in macchina, naturalmente nascondevo i fili tutti dentro il cassettino, perché se tu lasci i fili a vista è chiaro che prima o poi se lo seccano. Sì, ma questo non fa lasciare le macchine, io dubbi se che già viene giù qui. No, no, questo qui è immacolato, è bello, è pompa forte e pure. Per certo, anch'io ne sono più che convinto, glielo credo. E va bene, va. E tu sei voi del metro della macchina, metti te la basta, come ti ho detto, col supporto già, col supporto non saranno più una vernice, perché tu stringi da sotto, all'interno del cofano, con quel supporto nel fotellone. Cosa ti fa? Ti fa due puntini, ti fa all'esterno, non ti fa niente, no? Ora vediamola. Guarda in rete che ci sono dei supporti adatti e dei vini anche. Addirittura ci sono anche rinnovabili, proprio adatto per il baunetto, cioè per lì in fondo, per il fotellone. Addirittura rinnovabile anche. Ebbene, non lo prende più nessuno, ma ti sono lì. Capo, noi mi sto sollevando PL. Dove ci sono le zone, la zona che scalda scaldatore qua. O così non lo salvo. Scaldato stai, Scaldata. E cosa vuoi fare giù? Intanto passa tempo, ficando noi calci questa cosa. Mi serve. E fai bene, tu pensa che io poc'anzi ho preso quel microfono che ti ho fatto sentire poco fa. Ho fatto lo stessone, anzi addirittura lo stessone ce l'avevo già, ne ho anche altri, però mi manca lo stesso per quello del microfono. E ci ho infilato il figlio dentro, ci ho infilato così, e insomma li ho mantenuti con un pezzo di isolante fin quando non decido di saldare lo spinotto, che ce l'ho, non è che non ce l'ho, ce l'ho lo stesso. Ma non ne avevo voglia di attaccare il saldatore e mettermi a saldare. Ah, stai da sovramodulare, raga. Avanti tu, ola. Avanti ola. Ora, Ogo, vi ho preso, di tutto va bene, vari fila, di tutto c'è. Ma dove sono ti sette chi gioca? Sì, vabbè, lasciamolo fare, là. Anche lui è un povero diavolo. Poi c'è un bip emozioso, Sì, vabbè, là. E allora vuoi fare? Luca, ci sei? Lucola. Ok, vediamo quante parti d'acqua sono. Chi cos'ha che mi sta segnando? Scusa, ci hai pensato Giulio? Ah, vabbè. Sì. Vabbè, già ci ho pensato, lo so. E quindi, conclusione? Conclusione, casomai già sentiamo a tenere. Ah, sì, che è meglio. Facciamo di nuovo di piedi. Certo. È caldo, vai, che lo salto. Mangiare, sparito. Vai. Doppio. Mio figlio va a entrare da Leone e uscire dal mattone. O è andato a giocare con Lugano. No, ancora non credo. Ancora penso che sia presto, non può stare di tutto, non può aspettarvi. Sono sette e mezza appena. Per cui lui di tutto intorno alle 8 lo porta. Dai, un attimo ti faccio questa saldatura. Andare. E allora, fatemi la saldata di tutti i otto. E se mi avete con te, come ti posso aspettare? Io faccio tre mani via, o giù. Ah, pensavo che ne avevi tre di mani. Troia. Vabbè, dai. E allora ti piace la stazione di Seppa, no? E allora c'ho il terzo piede, quello sì, ma non tre mani. Sicuramente Stefano già è uno che si è attrezzato, già lo so. E ogni tanto ci sentiamo, se telefono anche. Poi quando viene qui a Sassari, ogni tanto già ci incontriamo, non è un problema. Più di una volta, più di uno, più di due, più di dieci ce ne abbiamo preso di caffè e di cappuccini insieme. Nani, che fai lì? Trattami, ci sei. Attenzione, binario 10, cambia. Ecco l'elicottero in azione. Gianni, sei rientrato? Sì, aspetta. Poniti, mettici con le macchine, fottidini, altro che 48 plus. Hola, 1, 2, 3, prova. Cambio. Attenzione Marco Condor, se ascolti il doppio ruolo, cambio. Oh già, lo sai cacchi, cosa va bene con quel berrecchi? Cosa? Ma tanto massa gialla! Ehi! questo è un baracchino che costa 450 euro intanto. Io sto dicendo, signor, come ha l'amplificazione, sembri uno di quelli che dice patate ma lanciata un megafono. Donne, è arrivato l'arrotino. Aspetta. Ma ne avevo visto uno, invece ne avevo visto. Aspetta quando che voleva. Più di 1000 euro mi vale le muria, boh. Incredibile, capo. Comunque già, ce l'hai l'apparecchio buono, te l'ho detto, altro che 48 plus, però non ha bisogno di nulla, è già pronto all'uso. Emmo. Stavo togliendo l'eco perché so che vi dà fastidio, stavo cercando di toglierlo, stavo regolando, come va? Una bombetta, perciò ti dicevo, l'apparecchio buono ce l'hai, ti manca l'antenna. Poi sempre volendo, con l'antenna buona, puoi aumentare qualche watt in più. Tu esce con 2 watt, non è che esce forte, capito? Esce con 2 watt, per quello che non lo voglio mettere. Allora maggior ragione, aiutino e antenna buona. Ma tutto l'impianto tocca fare, un casino, là. A futti. Che peccato, guarda la foto di quella spina, allora quelle rosse e nere sono quelle più vecchie, quelle che ti danno quelli aspirapolverini di città mercato, no? La prima che vedrai, quella tutta nera, che io ricordi era quella del Maxcom di serie, che io ricordi, ma potrei anche sbagliare. Ah, buon, dai, io vi lascio, ci sentiamo, dai. A domani, ciao ciao. Adesso mi ascolto il telegiornale, ci sentiamo. Ciao Luca, ciao Tonino, Gianni e Marco. Salutoni, ascolto il finale e poi chiudo, vai. Vai già. Ciao Giulio, ci sentiamo, buona carica quando la fai. Avanti Marco. Ciao Giulio, buona carica, buona TV, buon tutto. Ci sentiamo. Tonino. Ciao Giulio, buon corretti, quando vuoi fammi la bassa, non c'è problema. Marchi, alle prossime, ciao. Ok, ciao a tutti. Da Tonino. Ehi. Così male esce questo apparecchio, guarda, adesso gli ho tolto l'eco, guarda come esce, con il microfono normale adesso. Ce va bene, dai, per la macchina voglia. Ma più che bene, io con questo qua parlavo, da portatore esco l'alghero della macchina. Infatti, già, ti ho detto che forse non mi avevi sentito perché avevi lasciato la macchina prima, che con una modulazione buona dalla macchina hai fatto già il 90% del lavoro. Sì, sì, è vero. Poi non c'è bisogno di fare i buchi per fissarlo, basta mettere i due stracci a fianco e sei a posto, non si muove. Eia, com'è a scomparsa anche lì? Se è così è buono. Sì, a scomparsa, più di cassetto e via, non c'è più nulla. Allora, il baracchino, quando io lo metto in macchina, il mio è a scomparsa ma in un altro senso. Cioè, se lo lasci in macchina a scompare, ti lo futtini. Sì, vabbè. Adesso non penso che li frighi al baracchino. Prima già li rubavano a me, mi hanno rubato l'FM500S da Sacro Cuore. Tu, pur di vendere, di svendere, tutto va bene. A rubare tutto va bene, a rivendere, perché no? Cioè, lo vedono lì, incustodito, pilladilo, no? Forse anch'io me lo prenderei. Vedendo un baracchino in una macchina incustodita, chi lo sa? Mai dire mai, Gianni. Soprattutto in tempi di migrania. Guarda Marco, sto regolando la radio, guarda se è così, abbassandola è più bella, guarda, 1, 2, 3, adesso l'ho abbassata, guarda. Diciamo così va bene per modulazione notturna, no, per più rilassata, però l'altra è bella spinta, lì anche con segnale basso ti copiano bene. Vagava così, guarda, andale. Eia, ascolta, il mic che cosa era? L'originale o tipo DMC 507 oppure DM490 Midland? Mic fatto da me. Ah, vabbè, diciamo con più parti. Io ero intenzionato, allora ti spiego Gianni, la Marcucci ha chiuso, tutti i prodotti Lafayette della Marcucci, meno male stanno sparendo, e mi volevo accaparrare due DMC 507 per usi futuri. Siccome avevo comprato uno spinotto a 7 poli per il Polmar, no? Uno spinotto a 7 poli per un'altra cosa, avrei voluto provare quei microfoni là che hanno il cordone morbido e sono particolarmente comodi in macchina, proprio perché hanno il cordone morbido. Bisogna prenderseli questi DMC prima che spariscano, perché la roba la Lafayette, ho detto, ucciso Marcucci, il marchio non so se sia stato rilevato da altri, però nell'incertezza meglio prendersi i due. Ora io in questo microfono le ho fatto alcune cose, gli ho cambiato il filo, gli ho messo quello morbido, poi gli ho cambiato la capsula e gli ho cambiato l'iscatolato esterno, l'ho messo praticamente in uno dei Midland, quello dell'ACTE, l'ho messo, tanto sono uguali, ho messo la casa che c'era dentro della Midland, l'ho messa in quella della, no, quello della ACTE e quello della Midland. Eia, un'altra cosa, allora è presente lo chassis esterno del microfono, no? Quello Midland e quello Lafayette, no? Quello Lafayette ha un foro molto molto più grande, cioè l'apertura è molto più grande rispetto a quella del Midland, che mi pare sia tipo moneta da 20 centesimi. Poi la capsula originale del DM, vabbè, quello Midland, no? La forma è uguale per i microfoni. La capsula è dentro, è incapsulata dentro quella specie di custodietta metallica che ha dei forellini in cerchio, no? Mentre quella Midland sì, ha una parziale copertura in metallo, ma ha dei fori molto molto più grandi, cioè il suono gli arriva proprio diretto, sparato. Insomma, in fin dei conti, da che ha fatto prove e controprove, sommando tutte le prove, quello Midland è leggermente con toni più bassi, invece il DMC507 Lafayette ha dei toni leggermente più aperti, cioè più alti, e la modulazione più aperta, leggermente. Infatti io l'ho cambiato la cassa perché sembrano uguali, e invece con questa cassa qui esce meglio, sembra così, una fesseria, però è stato appurato, dai. Vabbè, questo qui è tutto quanto fatto da me, sono, ho messo cavo, tutto quanto diverso, capito? Mi ho cambiato tutto, perché lo dovevo usare in macchina, l'altro cavo era tetaro, e allora ci ho messo questo qua del DM1000 ed è bello morbido. Ehi, Tonino, stai sempre saldando? Puoi riprendere? Sì, ho finito di saldare il secondo PL e ho finito. Ho chiuso tutto, aspetto già il saldatore. Ehi, tutto a posto, meno male, dai, dopo tanto. Cosa stai facendo, Tonino? Non ho capito. Ho fatto una stazione che era due settimane, che tiro, non aggiungare, adesso mi ci sono messo e l'ho fatto. Sì, ci vuole più a dirlo che a fare le cose, dai. Bravo, ma siccome tiro la giugana, non ti prendi vagone, Hola? Attenzione, Tonino Kawasaki, ascolti il doppio room, cambia. Ti ascolto doppio whisky. Avagava, se vuoi aumento. Ui. Ecco qua, lo metto qua a raffreddare. Ma ci stiamo grubiti voi. Non mi brucia. Per questo raffreddare ci vuole un bene. Quando decido, Marco, faccio come tutto. Ah, vedi tu, dai, comunque, sì, perché alla fine, cioè, è come che io metta l'antenna del Maxcom col baracchino normale, comunque la prende sempre di meno, perché quell'altra Midland, quella che ho di antenna, è 1,60 m, cioè, nonostante sia a base magnetica, comunque ha una resa onesta, diciamo, dai. Invece quelle terribili sono quelle corte, quelle da 60 cm Midland, o quell'altra della Lem 70 cm, cioè va bene strettamente proprio in città, dentro in città, e in più se sei in mezzo ai palazzi e parli con la parte opposta della città, capace che non arrivi anche. Pagato. Vabbè, dai, cambio un baracchino prima di disturbare con questo qua, magari mi la spugno. Attenzione, Gianni Lo Fiorumo, se tu ascolti questa piccola chiamata che ti chiamo, KK. Attenzione, Lucrezia Borgia, ascolti il doppio rum che chiama, cambi. Attenzione, Gianna Landini, cambio, ti ascolto un richiamo, non ci stanno problemi, dai, la cosa è tutta bella qua. Marco, che non senti più tuo è più forte, ma è veramente eccessivo per un uso urbano. Comunque già, cioè, quando fa, per esempio per il 45 è perfetta quella. Positivo, dai, non ci stanno problemi, la cosa è tutta bella. È regolato così, ma se lo regolo io forte guai. Cambi, guarda, regolato forte, cambio basso. Io adesso ho questo microfono che non serve a niente, capito? Non ci stanno problemi, io sono tutto amico qua, se aumento, aumento, aumento ancora, capo. Però se aumento non va bene, poi sono di fatto sono pochi, pochi to. Sto aumentando così, ora un po'. Marcolino, Marcolino Collo, che tu ascolti Luca qua, cambia, cambia. Il segnale è Marco. Vai Gianni, fai un passaggio. Io? Guarda a me quando ti arrivo io, dai, che ho chiuso l'ecco. Quanto ti sta arrivando il segnale? Aspetta, vi ho attenuati. No, volevo vedere con segnale basso chi era più forte di radio. Però tu hai tolto l'eco, hai tolto, hai abbassato. No, Luca è assordante, veramente assordante. E c'ha dei toni anche persino più alti. Un po' più metallica, diciamo, dai, come i toni. Sì, Luca è assordante, mi fa disoggio. Allora, così è un watt, no, due watt sono, e modulati sono là, là, 15 watt, dai, cioè, i watt sono chiusi, ok, da 1, da 2 a 15 watt modulati, capo. No, a me va da 2 watt a 9, dai. Non di più, non sale di più perché sennò poi sbatte lo smitter e ti faccia l'ago. Invece così è regolato per non sbattere l'ago, capito? Ma a me io se lo metto maletta non sbatte l'ago, esce a vedere. Ehi, sbatte, sì, sì, è vero. È vero, attenzione, binario 10, cambio, cambio. Tutto, hanno cambiato il sistema per mettere le foto, tutto è sparito, comunque c'è lo hard disk, ma comunque le conoscerà le differenze, dai, tra due, tra quello Midland e quello Lafayette, siamo lì, diciamo che nel Lafayette gli hanno messo due spugnette grosse, una va tolta perché sennò il microfono è soffocato di brutto. Gianni non c'è. Ah, io Gianni, vedi, quello ti compri questo, io sto prendo il mio, dai. Gianni doppio room. Ci sei, Gianni, attenzione, Gianni doppio room. Guarda. Marco, ma da così. Aspetta un attimo. Aspetta. Guarda un po' il segnale se sale. Non parlo. È salito il segnale. No, Lu, troppo vicino sei. Aspetta che ti attenuo tutto. Ti attenuo, ti porto a Santiago 5 e mezzo. Aspetta, dammi tempo e mi rifai il passaggio. No, dai, mettimi a 5 e mezzo, dai. Dimmi un po'. Ma il passaggio l'hai fatto, allora, attenuato sei Santiago 5, però non ho visto variazioni, rifammelo. Adesso sì, da 5 a 6 attenuato, da 5 a 6, però quando sei, quando metto la refeghina a manetta, siamo troppo vicini, questo lo smitter proprio non va oltre, capito? Sì, ma guarda a vedere se, allora, il picco di modulazione c'è. Picco, io ho visto che ho visto salire il segnale con la portante muta da 5 a 6, ma non il picco, rifammelo, vai. Guarda. No, io picco non ne vedo qua. Conta che questo è un baracchino, però dovrebbe darlo. Cioè, se ti spiego, se tu usi bassa potenza, il resto è modulata, te la dà modulando. Se tu la metti già alta, non dà altri picchi, perché già la potenza è messa al massimo. Non sbaglio. Gianni poco fa, non era importante. Gianni, sì, c'è adesso la lente va vita, boh. No, lui sta facendo difetto il microfono, ecco. Dunque, poco fa di tu lo stesso. Sì, Marco, dai, comunque ti sentito, là. Sì, ma allora, da così, aspetta, eh. C'è un attimo. Ma vaffan. Allora, da così, aumenta la radio. La radio. Ti devo attenuare di nuovo, se non riusciamo più, vai. No, la radio, la modulazione si aumenta, non c'è bisogno di guardare il segnale, la radio, da così a così, aumenta la radio, guarda un po'. Sì, sì, un bel pure, attenuato si nota di più, invece quando sei a pieno segnale, anzi qua saturi perché siamo troppo vicini, aumenta, aumenta come? Ok, ha finito, non è che devo continuare, boh, finito così, da. Va bene, Gianni, aspetta, vado a controllare l'effettino un attimo, bianco. Ia, ecco qua, porca miseria. Gianni, ti sta rifiutando il PTT per caso? Niente, non pervenuta. Va bene, dai, vediamo che ore sono. 8-5. Mi sparo un bel caffè in vena e così abbiamo risolto. Cioè parlo, ah no, Gianni, tu sei PTT, eh? O il PTTO? No, non ci capiamo oggi, dai. Torino, ci sei. Marco. Va bene, tutti morti, dai. Dai che metto a posto queste spine accendisigari che ho seminato per tutta la stanza. Comunque, come quella nera, dai. Mi stava dando problemi lo spirito del microfono, chiedo scusa, ma non l'ho fatto apposta. Ah, la spina accendisigari è come quella nera? Sì, ah. Quindi, che io ricordi, quella nera è quella del Maxcom. Ma quella cos'era? Del kit emergenza per caso? No, quella lì era una... c'ha la parte davanti in ferro, dai. Nera con la parte davanti in ferro. No, era di un coso, di un navigatore satellitare che mi si è rotto e ho tolto quello lì. Eia. Sì, no, stavo pensando, dubito che un rientro di RF con così pochi watt mi pare strano. Cioè, da me non lo fa. Io ho provato il baracchino normale con l'antenna del Maxcom, no, stazionari anche, diciamo, non sono poche, non è 1-1. Eppure rientri nulla, nonostante il cavo sottile, col cavo RG, come si chiama, 174, funzionava. Anche perché hai preso la base già, sai, cioè alla fine rimane ben utilizzata anche, ed è proprio quella della Lemme a me. quella adatta alla turbo. Adesso faccio il diavolo tentatore. Lo so. Ho preso la base, adesso mi sta andando male anche questo qua, cazzo, il microfono, non so cosa cazzo c'ha. L'ho messo nell'altro attacco perché là innescava, sembra che quando lo muovi succede casino, no? Adesso lo sto facendo. Sì, adesso sta innescando di brutto. E vabbè, dai, ti lascio Marco, dai. Lo controllo questo microfono perché sennò mi fa uscire di testa. Lo controllo i contatti, deve essere c'è qualcosa che non va. Ehi, già, dai, sentiamo, io adesso tanto vado a fare lo caffè. Ciao Tonino, se l'ascolta ancora, di quelli d'ascolto, dai, sentiamo alle prossime. Ciao, buona serata. Mi sta mancando, buona serata, ho detto. Ciao, si era mollato lo spinotto e adesso deve essere che come si è mollato si è staccato qualche filo. Infatti guarda, già a me non piace saldare, poi come cominciano a farsi i contatti, mica devi ricontrollare tutto, mamma mia, preferisco buttarci tutto. Vabbè, non è quello il problema, baracchini già ne ho, ma mi dà fastidio che non funzioni, capito? Ce l'ho qua e deve funzionare. Va bene, dai, di nuovo, salute già. Sentiamo, boh, quando capita, oggi volevo tentare di seguire un film perché alla fine sono come assente, cioè lì si guarda il film però è come se la mente fosse distratta da altro, mi boh. Vabbè. Non si è motivato, dai, guarda certe cose, deve essere, non hai gara. Ehi, ma tu hai anche l'autoascolto adesso, oppure non ti stai ascoltando? Sì, ho il parlascolto. Ah, ascolta, ma è fisso in quell'apparato regolabile? Quello con la bandierina, sì. Della bandierina? No, non ne ho mai messo bandierina, ce l'ho ma non l'ho mai messo. No, ma non è il parlascolto, perché è lo spinotto che come lo tocco fa questi casini. Lo spinotto, dai. Vuole smontato, controllate le saldature, rifatte e via. Quello lì, problema. Ciao, ci sentiamo. No, dicevo il frontalino, forse sto sbagliando io. No, ricordavo che tu avevi il frontalino con la bandierina tipo americana. Oh, mi starò confondendo già. No, me l'hanno mandata. Però non l'avevi piazzata, ho capito. No, perché c'è, raga, non mi piace. Metti la bandierina italiana, me. Ma non dico niente, sennò mi accusano di vilipendio alla bandiera. Positivo Cavarroggi, fratello, un guaga. Azzardo. Eutanasia Giamendi, tipo, ma che fine fa? Catta, questo lavoro, ma quando è che fai l'amore? Mai. Catta, vedo, al lavoro tutto moscio. Ho detto, poi arrivi, al lavoro tutto moscio, tutto froscio. Poi ti fa una bottiglia di uova e zabaglione. E una battaglia. Io, tu e le rose. C'è Gianni e Marcolino. Là. C'era Marcolino, il caffè, mi devo fare il caffè in vena. No, io non dormo a priori, che lo prenda o non lo prenda, non dormo prima dell'alba, quindi tanto vale togliermi tutti i vizi. Marco, il caffè non fa rettare. Dite a Marco, il caffè non fa rettare. No, anzi, forse fa rettare anche di più. Poi io ci sciolgo le due pasticche di Viagra dentro, ne capì? Io prendo il caffè corretto. E la buona cura a terra. Me lo tiro a spalle, me lo tiro. Se non fosse che non ci arriva a spalle, capito? No, al lavandino lo tira, ha sbeccato il lavandino di casa sua. Buongiorno, lo so. Aspetta, inizia la cinema. Aspetta, io al cinema, papà Buccorno, comparato le coca... Ho quattro cannucce. Allora, che viene dalla montagna. No, non vanto. Domani mattina alle 5 di nuovo. Allora, tutto il riposo. Ho capito. Sì, che ha aperto. Chi ha detto che è aperto? Sì, ha detto che è aperto, boh. E la lasci lì. Tu vuoi mettere una mascherina? Davanti alla questura scaricalo. Ehi, non ti fai di nuda, non ti conosci. Ma chi si non conosce ti fai di cosa? Se ti conosci non ti fai di nuda. Sì, io posso anche eliminare. Ah, una fancuffia. Io c'ho il tastino dietro, non mi aspetto. Allora, riesci a vedere? Cazzo. Questo non ce l'ho più. Ma le coccolte c'ha, no? Capito. Dovresti provarlo, tanto piano piano, e sai qual è. Qua, ormai già, all'inizio ero un po' così. sto capivo, poi, gli do chissà, quindi ve lo squelci, bello, eccomi.